Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Le risposte del ministro De Girolamo sulla vicenda della ASL di Benevento arrivano in un'aula della Camera semideserta. Vittima di un complotto, linciaggio senza precedenti, dice lei, il PD non sembra convinto. Frane, allagamenti e l'autostrada dei Fiori interrotta, Liguria colpita dalle piogge, evacuate alcune famiglie nello Spezzino per i timori di una piena del Magra. A Gioia Tauro i sindaci contro il passaggio del materiale chimico siriano destinato allo smaltimento, ma nel porto sono già state trattate negli scorsi anni migliaia di tonnellate di sostanze simili. Il caso di Marò, vertice prima del Consiglio dei Ministri, l'Italia, l'India, tenga fede alle promesse, no alla pena di morte. Nella riunione dell'esecutivo, via libera al provvedimento sugli scatti di anzianità degli insegnanti. Protesta dei forconi, arrivano gli arresti in Puglia dopo i casi di minaccia ai negozianti. 7 persone in manette, 50 indagati, violenza privata, minaccia e resistenza a pubblici ufficiali, queste le accuse. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che, se volete, potete commentare via SMS al 349-238-6666 oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno oppure scrivendomi su Twitter mi trovate Simone Spezia. Altre notizie che tratteremo in questa edizione di Effetto Giorno, un'altra storia che vi vorremmo raccontare ed è quella del fatto che tra poco ricorrono i 30 anni dal record dell'ora di Moser e sentiremo la voce del campione. Prima di parlare di politica, però, vogliamo darvi subito un aggiornamento su quello che sta succedendo in Liguria a causa delle piogge. Ci colleghiamo con Genova e con Andrea Ferro per fare il punto. Andrea, buongiorno. La pioggia continua a flagellare la Liguria, Simone, siamo in stato di allerta per la terza volta in 20 giorni. In queste ore la perturbazione ha imperversato soprattutto sulla riviera di Ponente, nell'Imperiese in particolare. Nella notte torrenti esondati e allagamenti, ma il pericolo maggiore viene dalle frane. 5 paesi sono ancora isolati in Val Nervia e in Valle Argentina. Una casa è crollata a Ceriana con gli abitanti che l'avevano abbandonata in tempo. In tutta la provincia gli sfollati sono una cinquantina. L'Aurelia è rimasta interrotta in più tratti dopo il blocco tra Ventimiglia e Arma di Taggia. Ora sull'autostrada A10 si transita regolarmente, i treni circolano ma con ritardi. Nel Savonese allagata la piana di Albenga, pesanti danni alle coltivazioni. Adesso la protezione civile sta monitorando con grande attenzione i corsi d'acqua del Levante, a partire dai due principali, l'Entella che in mattinata è temporaneamente esondato a Lavagna e il Magra al confine con la Toscana. Su queste zone infatti si annunciano ancora almeno 24 ore di pioggia, tanto che sul Tiguglio lo stato di allerta è stato declassato da 2 a 1, ma prorogato fino alle 18 di domani. La misura è stata annunciata poco fa dalla Protezione Civile. A Genova piove ad intermittenza, ma non ci sono problemi particolari, tranne la questione della discarica di Scarpino. Ieri sera, a causa della pioggia e dell'ingrossamento delle falde acquifere, il percolato è tracimato dalle vasche di contenimento e si è riversato in un torrente. Per il momento da Genova è tutto, ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Ferro e veniamo alla pagina politica. In apertura il caso del ministro Nunzia De Girolamo, oggi si è difesa in aula, un'aula va detto decisamente semideserta dopo le registrazioni circolate nei giorni scorsi che paiono dunque indicare pressioni sull'ASL di Benevento. Iniziamo dal servizio. Mai, mai e poi mai ho abusato del mio ruolo di deputato e mai, mai e poi mai ho violato la legge e la Costituzione sulla quale ho giurato fedeltà. Si difende con le unghie e con i denti dalle accuse innescate dalla vicenda della sanità campana, un intervento appassionato quello del ministro De Girolamo, linciaggio, accanimento senza precedenti, complotto ordito ai miei danni, frasi estrapolate dal contesto, intercettazioni illecite, afferma il ministro dicendosi comunque serena e fiduciosa nella magistratura. Non ho mai segnalato ditte o primarie, non ho mai abusato della mia posizione, non ho mai interferito con le decisioni della dirigenza dell'ASL. Non posso negare che mi sia stato da più parti richiesto, anche da persone autorevoli. Ho sempre detto no. E forse oggi mi fanno pagare anche questo. Insomma, mai sponsorizzato nessuno, mai esercitato pressioni, mai violato le leggi, insiste più volte il ministro che conclude con una punta di commozione. Voglio che negli anni a venire mia figlia, leggendo ciò che è stato scritto in questi giorni, possa andare a testa alta. Applausi solo dai deputati del nuovo centrodestra in un'aula semideserta. Il PD non è convinto, ancora molte zone d'ombra. Neanche suo marito, Francesco Boccia, applaude. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Sandro Gozzi, deputato del Partito Democratico, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Lei c'era in aula? Sì. Lei c'era in aula. L'ha convinta la De Girolamo? No, devo dire non del tutto. Allora, distinguiamo dal punto di vista personale umano vicinanza, perché ovviamente il ministro era sotto forte emozione, come comprensibile che sia. Dal punto di vista delle spiegazioni che ha dato, posto che non mi sembra che rilevi la rilevanza penale o no della questione, qua parliamo di opportunità di comportamenti politici e non di rilevanza penale, perché noi siamo in Parlamento e non dobbiamo certo fare noi giudici, mi sembra che ci siano degli aspetti, vari aspetti ancora da chiarire e varie zone d'ombra che rimangono. Si deve dimettere Gozi, secondo lei, De Girolamo? Guardi, questa è una valutazione adesso che dobbiamo fare insieme nel gruppo. Io continuo a ritenere quei comportamenti inopportuni, però questa è una valutazione a questo punto che dopo l'intervento lungo e dettagliato del ministro dobbiamo fare insieme. A mio modo di vedere questi comportamenti rimangono molto inopportuni. Ipotizza un suo sì alla mozione di sfiducia presentata al Movimento 5 Stelle? Ma guardi, io credo che su queste vicende dobbiamo ragionare come in coscienza, come gruppo e come partito, e quindi io non ho intenzione di andare contro quella che sarà la linea che emergerà dal Partito Democratico o dal gruppo. La mia valutazione rimane una valutazione piuttosto negativa, però adesso aspetto di vedere la riunione che faremo e faremo una valutazione insieme, come giusto che sia, perché su queste questioni credo che bisogna avere una posizione unitaria. Però ricordo che anche il membro dell'ufficio di presidenza, De Maria, che era intervenuto dopo l'intervento del ministro, ha sottolineato che rimangono varie perplessità. Quindi secondo lei è probabile che si vada verso una richiesta di dimissioni da parte del PD? Guardi, prima di entrare in riunione io non posso farle il calcolo delle probabilità. Sarebbe da parte mia imprudente farlo. L'inopportunità del comportamento, a prescindere dalla sua rilevanza penale, a modo mio, ma ho sentito anche altri esponenti del Partito Democratico, rimane. Però adesso discutiamone insieme e prendiamo una decisione prima dell'aula, insomma. Grazie. Credo che si debba andare in ordine sparso. Grazie a Sandro Gozi, deputato del Partito Democratico. In tutto ciò il governo è alle prese con tensioni tra il principale partito di maggioranza, ossia appunto il Partito Democratico, e il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, che si sono palesate ieri e ancora una volta questa mattina. Il punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Ieri la direzione nazionale con l'appello a fare presto sulla strada delle riforme. Oggi un tweet di prima mattina. Il neosegretario del PD continua di fatto il suo pressing sulle forze politiche e sul governo perché non si perda altro tempo. Renzi ricorda quindi le urgenze per il paese. Legge elettorale seria, via Senato e province, cambiare le regioni. Mi hanno votato per questo, molti cercano di frenare, ma io non mollo. Tutto questo alla vigilia del faccia a faccia tra Berlusconi e Renzi. Un incontro che la minoranza del PD non vuole che avvenga. Incontrare un evasore fiscale, un pregiudicato, è la tesi della componente vicina a Cuperlo e Bersani, vorrebbe dire legittimare il Cavaliere riportandolo al centro della scena politica. Al di là però delle dichiarazioni ufficiali abbastanza concilianti, chi sembra abbia alzato i toni con Renzi nelle ultime ore il Presidente del Consiglio Letta. La legge elettorale devi farla a partire dalla maggioranza di governo, sarebbe l'avvertimento di Letta a Renzi, e bisogna ragionare sul doppio turno, altrimenti vai a sbattere, al Senato non hai i numeri e si va a votare col proporzionale. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, ed è su tutto questo, così come sul caso De Girolamo, che ci concentriamo per il commento di oggi. Il punto di Stefano Folli. Anche oggi in diretta, Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, ti direi partiamo dalla cosa più fresca, insomma, la vicenda De Girolamo. Hai sentito la nostra intervista con Sandro Gozi, come si diceva ieri, insomma, sembra che il destino sia segnato, no? Sei segnato, ma non è che la cosa sia politicamente senza un prezzo, perché andare dietro al Movimento 5 Stelle per il Partito Democratico è un problema politico non da poco, e d'altra parte difendere a oltranza il ministro è anche molto difficile, perché ci sono quei profili di inopportunità nei suoi comportamenti che Gozi metteva in risalto, al di là di profili penali che probabilmente non ci sono, e quindi è una questione sulla quale è difficile pronunciarsi. Se il ministro si fosse dimesso sua sponte, probabilmente avrebbe risolto molti problemi a tutti, ma questo non sta avvenendo e quindi si tratta di collocare anche questa vicenda dentro un rinnovamento più generale della squadra di governo, secondo me va fatto insieme, diciamo, al rilancio del programma. Mi sembra che ogni giorno che passi si avvicina il momento in cui si debba prendere una decisione in merito a questo generale rinnovamento. Stefano, come leggi queste tensioni tra Letta e Renzi? Sono in un certo senso senza precedenti, perché Renzi parla un po' come il leader dell'opposizione, il Presidente del Consiglio lo vede come un avversario sostanzialmente. Io penso che la strategia del segretario del PD sia quella di puntare tutto su un numero, presentarsi come il grande riformatore, l'uomo che viene frenato da tutti gli altri che non hanno la sua stessa visione, l'uomo che vuole la riforma. È una strategia di tipo elettorale, non c'è il minimo dubbio, perché, diciamo, elimina e salta tutte le mediazioni possibili. Questa strategia avrebbe un senso se davvero si volesse andare alle elezioni, o se fosse possibile andare alle elezioni in tempi brevi, ma siccome non è così, perché c'è una legge elettorale attualmente che è proporzionale e che a Renzi non può andare bene assolutamente, infatti non va bene, perché tutta la sua strategia è fondata sull'idea che c'è un leader e c'è soprattutto una maggioranza forte che fa seguito a elezioni in cui viene riconosciuto con chiarezza il vincitore e lo sconfitto. Non avendo questa carta in mano, e chissà se mai riuscirà ad averla attraverso un dialogo con Berlusconi che è veramente irto di ostacoli, questa strategia diventa piuttosto contraddittoria, e quindi io temo che continueremo con questo atteggiamento di forte tensione tra lui e fino a quando però saranno i fatti a dare una soluzione ai problemi. Io spero ancora che sia possibile trovare tra loro due un componimento e un accordo per rilanciare il governo, altrimenti si rischia una lenta decadenza fra tensioni sempre più forti. Grazie anche per oggi a Stefano Folli. Buona giornata, Stefano. Noi adesso parliamo innanzitutto della vicenda dei due Marò. Ci sono le dichiarazioni di questa mattina di Staffan de Mistura, inviato del governo in India. In attesa di sviluppi chiederemo alla Corte Suprema indiana, dice, di far rientrare i due fucilieri nel nostro paese. Questa mattina c'è stata una riunione a Palazzo Chigi e poi si è svolto il Consiglio dei Ministri. Facciamo il punto. Dal Consiglio dei Ministri arriva l'atteso via libera al decreto che dovrebbe mettere fine alla vicenda degli scatti di anzianità del personale della scuola, una questione che aveva alimentato un prolungato botta e risposta polemico fra il ministro dell'istruzione Carrozza e quello dell'economia Saccomanni. Il decreto conferma lo stop alla restituzione degli scatti già percepiti nel 2013. Per gli insegnanti che li hanno maturati, quindi, non ci saranno trattenute da 150 euro in busta paga né decurtazioni degli stipendi. Prima del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi si è tenuto anche un vertice ristretto fra il Premier Letta e i ministri Bonino e Mauro sulla questione dei due Marò italiani detenuti in India, per i quali nei giorni scorsi si è tornato a parlare di un rischio di una condanna a morte. Con una nota il governo ha ribadito la sua ferma aspettativa che l'India tenga fede alle assicurazioni fornite, che escludevano la pena capitale per i fatti in cui sono coinvolti i nostri militari. Letta ha anche ribadito la richiesta che i due possano essere rimpatriati in attesa del processo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ritorniamo ora su una vicenda che abbiamo in parte già trattato ieri, ve l'abbiamo raccontata, le notizie date dal Sole 24 Ore in merito ad una lista con 120.000 conti in ombra della HSBC in luoghi che sono sostanzialmente paradisi fiscali, e ne abbiamo parlato con Angelo Mincuzzi, che adesso è in linea con noi, collega del Sole 24 Ore. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, punto di oggi, mi sembra di capire, è l'ipotesi che i magistrati italiani facciano una rogatoria per avere questi dati e queste informazioni. Sì, perché adesso tocca ai magistrati italiani decidere se questo materiale arriverà in Italia o meno. Guarda, si tratta di oltre 121.000 conti correnti aperti in 8 filiali dell'HSBC Private Bank in 20 società controllate dal colosso bancario britannico. È un materiale molto complesso e articolato che viene decriptato e analizzato in questi mesi in Spagna con l'aiuto proprio di Hervé Falciani, l'ex dipendente della banca nel cui computer i magistrati francesi trovarono nel 2009 i sistemi informatici dell'HSBC con tutto il loro contenuto. Ecco, dentro questo grande calderone ci sono anche i nomi dei presunti evasori fiscali italiani, probabilmente saranno alcune migliaia. E le identità, come dicevamo, arriveranno in Italia soltanto se una delle tante procure in Italia che se ne stanno occupando, cioè che stanno lavorando sulla vecchia, quella del 2010, chiederanno formalmente, attraverso tutti i canali del Ministero della Giustizia, chiederanno ai magistrati spagnoli di avere una copia di questo materiale e tutto ciò può arrivare attraverso l'erogatore internazionale naturalmente. Allora è stata la procura di Torino quella che ha svolto il ruolo di capofila, però ci sono inchieste aperte anche a Milano e a Roma. Vedremo quindi se una di queste procure presenterà questa richiesta. Io ringrazio nel frattempo Angelo Mincuzzi, anche qua tutti i dettagli sul Sole 24 Ore. Noi torniamo adesso però sulla cronaca, perché poco più di un mese fa prendeva il via quella che alle cronache è passata con il nome di protesta dei forconi, e vennero segnalati dei casi di negozianti costretti a chiudere in Puglia. Oggi gli arresti. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 9 e l'11 dicembre del 2013. Ad Andria e Barletta si tennero diverse manifestazioni di aderenti al cosiddetto movimento dei forconi. Le immagini, in possesso degli inquirenti, mostrano che con violenza alcuni partecipanti imposero la chiusura di numerosi esercizi commerciali. I manifestanti cercarono anche di imporre la serrata ad una banca, ma in questo caso l'azione fu impedita dall'intervento della polizia. 25 i provvedimenti notificati questa mattina, 8 persone sono finite ai domiciliari. Agli altri è stato imposto l'obbligo di dimora. Violenza privata, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, i reati contestati. Complessivamente sono una cinquantina gli indagati. Tra gli arrestati vi sono anche dei pregiudicati, mentre non figurano gli autotrasportatori che diedero il via alla protesta. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sentiamo cosa succede sulle strade. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Le risposte del ministro De Girolamo sulla vicenda dell'ASL di Benevento arrivano in un'aula della Camera semideserta. Vittima di un complotto, dice, linciaggio senza precedenti, il PD non sembra convinto. Frane, allagamenti, l'autostrada dei Fiori interrotta, Liguria colpita dalle piogge, evacuate alcune famiglie nello Spezzino per i timori di una piena del Magra. Gioia Tauro, i sindaci contro il passaggio del materiale chimico siriano destinato allo smaltimento, ma nel porto sono già state trattate negli scorsi anni migliaia di tonnellate di sostanze simili. Protesta dei forconi, arrivano gli arresti in Puglia dopo i casi di minaccia ai negozianti, 7 persone in manette, 50 indagati, violenza privata, minaccia e resistenza a pubblici ufficiali, queste le accuse. E noi, prima di spostarci a Gioia Tauro per capire che cosa sta succedendo, vogliamo parlare della vicenda di Bernie Ecclestone, perché il patron della Formula 1 è stato rinviato a giudizio in Germania per corruzione e ha deciso di dimettersi dal consiglio di amministrazione della Delta Topco, che è la società che gestisce la Formula 1. Carlo Genta, in studio con noi, mi sembra che è sua. Cioè. E che è sua. Mi sembra di capire che non ti fidi più di tanto di questa mossa. No, mi fido, perché così dal punto di vista anche estetico quasi è una rivoluzione epocale. Cioè sapere che Bernie Ecclestone, che ha inventato questo tipo di Formula 1, in scena da un millennio, 83 anni, si dimette da quella carica, scende da quella poltrona da lui stesso creata, con vista sul regno della Formula 1. Va detto che insomma, c'è questo giudizio pendente che probabilmente inizierà ad aprile. Corruzione e istigazione alla frode sono i capi di imputazione, però non esce totalmente di scena, quindi è una mossa dovuta. Tu dici tanto, la proprietà è sua. Sì, e poi soprattutto il consiglio d'amministrazione leggo il comunicato, ritiene che nel principale interesse commerciale e sportivo della Formula 1 il signor Ecclestone dovrebbe continuare a gestire l'azienda giorno per giorno, ma soggetto a una maggiore sorveglianza e controllo del consiglio medesimo. Quindi rimane lì, lo sorvegliano, gli mettono la badante, però non esce totalmente di scena. Diciamo che sta in stand-by, non potrà firmare in prima persona gli onerosi contratti legati a questo, al circus, però di fatto è ancora lì in attesa del procedimento. Che questo poi sia un primo passo verso una definitiva uscita di scena, perché lui è importante sì, però poi ci sono altri interessi in ballo di grandi scuderie. Vabbè, questo può essere il primo passo di una definitiva uscita di scena di Ecclestone, che ancora però secondo me non è reale. Grazie Carlo Genta e buona giornata a te. Noi passiamo a parlare delle vicende di Gioia Tauro, dove come sapete dovranno passare le definite impropriamente armi chimiche, l'arsenale della Siria, insomma l'arsenale chimico siriano. C'è la protesta dei sindaci in queste ore. Io voglio salutare innanzitutto Ferruccio Trifirò, che è professore emerito dell'Alma Mater, insegna chimica industriale, ma è anche l'esperto italiano nel comitato scientifico dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, che è l'organizzazione che ha ricevuto il Nobel per la pace quest'anno ed è l'organizzazione che si sta occupando di tutto questo. Professor Trifirò, benvenuto. Buongiorno. Allora, che rischi ci sono? L'attività che si è fatta in Italia è solo un trasbordo di alcune cisterne che contengono sostanze chimiche tossiche. Queste cisterne arriveranno su una nave danese, io credo che saranno portate sul porto e poi messe in questa nave americana, e questa nave americana contiene una strumentazione per il trattamento di queste sostanze tossiche per renderle meno tossiche. Ecco, si chiama neutralizzazione, un trattamento a 90 gradi, non è un trattamento complesso, una reazione molto nota. E poi diciamo il liquido ottenuto, gli effluenti ottenuti da questo trattamento rimangono nella nave e saranno poi trasferiti in alcune nazioni europee che li distruggeranno completamente. Una di queste che ha detto già di sì è la Germania. Germania. Quindi non c'è nessun rischio sostanzialmente, perché è solo un momento devono essere operazioni fatte bene, sotto controllo. Quello diciamo che dà garanzia è la presenza diciamo anche di esperti di questa organizzazione che saranno presenti in tutte le operazioni, che fanno da garanti, diciamo. Ma poi anche le stesse diciamo persone che fanno questo, il pericolo anche per loro, quindi sono persone esperte che stanno attenti, diciamo. Sono operazioni, certo. I primi diciamo a essere vittime potrebbero essere sono gli addetti delle navi, che quindi questi saranno molto attenti a queste operazioni, diciamo. Domenico Madaferri, sindaco di San Ferdinando, provincia di Reggio Calabria, è il territorio nel quale si trovano la maggior parte delle banchine del porto di Gioia Tauro. L'ha sentito il professor Trifirò, Madaferri? No, l'ho sentito e rispetto la sua opinione, perché senz'altro è un tecnico. Io vorrei porre l'accento su due questioni. C'è un aspetto politico, che non è consentito che ci vengano calate delle decisioni dall'alto, perché io le posso dire che sino a questo momento né io né il sindaco di Gioia Tauro né il sindaco di Rosarno siamo stati avvisati ufficialmente di questa operazione, il che vuol dire che ci hanno trattato come non persone. Mi scusi Madaferri, però anche una volta che vi hanno avvisato lo fanno lo stesso, è un'operazione internazionale decisa dal governo. Non metto in dubbio che ci siano queste esigenze di natura internazionale, anche perché vivo in questo mondo, però io dico che non è possibile che si usi la nostra azione, la nostra zona solo per fatti negativi e non si usi anche per fatti positivi. Io le dico soltanto una cosa, che da 2 anni che io ho una tendopoli con 1200 persone che vivono come animali e non mi ha risposto mai né il ministro dell'interno né il ministro dell'integrazione e nella regione, e non so come andremo a finire, che molto probabilmente farò un'ordinanza di sgombro di 1200 persone. Però mi scusi Madaferri, non ho capito questo che cosa ha a che fare con questi elementi chimici che arrivano dalla Siria. Io le stavo dicendo una valutazione di carattere politico, perché io sono un politico, sono un tecnico. Entrando nel merito poi di questa questione, io ho sentito qualche esperto, il quale mi dice che sono delle operazioni per cui si raggiunge anche una certa sicurezza, ma che è preferibile che vengano fatte in zone non densamente popolate, perché l'incidente può essere sempre dietro l'angolo. Consideri pure che se nella malaugurata ipotesi ci dovesse... Allora facciamo una cosa, Madaferri, la fermo. Trifirò, è vero quello che ci dice Madaferri o no? Ma è un'operazione di trasbordo, non è un'operazione chimica. Infatti l'operazione chimica verrà fatta poi a largo, diciamo, in territorio non internazionale. Quindi c'è solo un trasbordo di un di recipienti. È chiaro, ci può dire niente, ma diciamo, sono operazioni non pericolose, è un trasbordo di autoclavi o di cisterne. Di cisterne. Diciamo, operazioni chimiche non ce ne sono lì, ecco. Le operazioni chimiche saranno fatte poi senz'altro sulla nave, ma diciamo a largo. Diciamo. Mm. Ma da Ferri, lei ha detto che vuole chiudere il porto. Sì, guardi, io... Lo farà? Sì, guardi, io lo farò perché le posso preannunciare che lunedì pomeriggio alle 16.30 nella sala consigliare del comune di San Ferdinando ci saranno tutti i sindaci della provincia di Reggio Calabria. E lì prenderemo delle decisioni. Se qualche esperto di diritto della navigazione ci darà un parere positivo sulla fattibilità di una chiusura del porto, io lo farò. Mm. No, senza se e senza ma. Allora, grazie a Domenico Madaferri, sindaco di San Ferdinando, provincia di Reggio Calabria, Ferruccio Trifirò, che è professore all'Alma Mater ed è nel comitato scientifico dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. E buona giornata. E saluto adesso invece Giuseppe Barretta, sottosegretario alla giustizia, benvenuto. Grazie tante. Berretta, ma fa lo stesso. Berretta, chiedo scusa. La chiamiamo perché sappiamo che lei è stato in visita a Vincenzo Di Sarno, il detenuto nel carcere di Poggio Reale, che nei giorni scorsi si è rivolto anche al Presidente della Repubblica, chiede l'eutanasia perché sta molto male, adesso gli è stato concesso di andare in ospedale. Come lo ha trovato, Berretta? No, io in realtà sono ancora in visita al carcere di Poggio Reale perché abbiamo ritenuto, diciamo, che è giusto affrontare il singolo tema, però una volta che ero qui a Napoli ho voluto visitare e prendere un po' coscienza delle condizioni complessive della struttura detentiva, che accoglie tantissimi detenuti, quasi alcune migliaia, quindi era giusto, diciamo, oltre che affrontare il caso specifico, è sicuramente un caso importante, verificare un po' le condizioni complessive della struttura detentiva. E lo vedrà Di Sarno in giornata? Sì, lo vedrò fra una mezz'ora circa. Intanto in questo momento sono in visita all'infermeria, nella quale purtroppo ho verificato la condizione di difficoltà e di disagio nella quale vivono tantissimi detenuti. I radicali dicono oggi che in realtà il caso di Sarno non è un caso isolato, dice in realtà ce ne sono molti in queste condizioni. Sì, allora, forse molti no, però diciamo insomma. No, ce ne sono molti, è sicuro che è così. Peraltro il caso di Sarno ho verificato che è stato anche molto molto seguito dai medici interni all'ospedale, ha avuto tutta una serie di visite, però certo c'è un dato oggettivo che c'è stata una grave perdita di peso, rifiuta alcune cure, c'è una condizione di difficoltà che è secondo me fisica ma anche molto psicologica, e quindi è giusto che lo Stato lanci a Disarmo e a tanti altri detenuti un messaggio di fiducia, di speranza, di attenzione e di vicinanza. E questo è il senso, diciamo, dell'incontro di oggi, ripeto, con lui e con tanti altri detenuti che ho avuto modo di incontrare qui a Poggio Reale. Grazie sottosegretario Berretta, buona giornata, buon lavoro, e poi magari cercheremo di richiamarla in giornata per farci raccontare com'è andata. Ci fermiamo, c'è una pausa. Intanto vi do una notizia importante appena battuta dalle agenzie sul tema sul quale abbiamo aperto, ossia il maltempo in Liguria, le piogge in Liguria. Il locomotore, almeno un vagone del treno Intercity 660 tra Milano e Ventimiglia, sono deragliati a causa di una frana caduta dalla parete rocciosa tra Andora, provincia di Savona, e Cervo, provincia Imperia, in un tratto a binario unico. Da quel che si sa al momento sono feriti i due macchinisti. Maggiori aggiornamenti appena li avremo. Una pausa, ci ritroviamo per la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Le piogge in Liguria, il locomotore e un vagone di un Intercity tra Milano e Ventimiglia sono deragliati a causa di una frana, sono feriti, da quel che sappiamo almeno al momento, i due macchinisti. In un tratto a binario unico, appunto, c'è stata una frana, e questo è quello che è successo. Le risposte del ministro De Girolamo sulla vicenda della ASL di Benevento arrivano in un'aula semideserta, vittima di un complotto, dice lei. Gioia Tauro, i sindaci contro il passaggio del materiale chimico siriano. Uno dei sindaci ha detto poco fa ai nostri microfoni: sono pronto a chiudere il porto. È il momento della borsa. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Ciao e buongiorno come sempre. Buongiorno. FTSE MIB più 0,46%, FTSE OCER più 0,47%, borsa italiana meglio di quelle europee, più 0,20% Parigi, più 0,26% Francoforte, Londra più 0,14%. Sì, la borsa di Milano è leggermente positiva, con acquisti su quasi tutto il listino principale. C'è stato qualche realizzo su alcuni titoli bancari a metà mattina, ma poi gli indici hanno ripreso a salire e FTSE MIB potrebbe così chiudere la settimana con un progresso superiore al 5% da inizio anno. Adesso l'attesa è per novità dagli Stati Uniti sui dati macroeconomici e risultati societari. Dopo i conti deludenti di Intel e Citigroup diffusi ieri, oggi l'attenzione è rivolta a General Electric, che ha da poco diffuso una trimestrale positiva, Morgan Stanley, che invece ha diffuso pochissimo tempo fa risultati leggermente sotto le attese, e c'è attesa anche per i nuovi numeri su cantieri, produzione industriale e fiducia dei consumatori, che potranno influenzare l'andamento dei mercati nel pomeriggio. E immagino che a questi risultati deludenti di cui ci parlavi sia legata la performance di oggi di ST Microelectronics, che cede l'1,79%. Altri titoli da segnalare brevemente, Isabella? Sì, è in ribasso anche Unipolsai, meno 0,26% dopo i balzi dei giorni scorsi, grazie all'offerta arrivata da Allianz per gli asset che la società deve cedere come chiesto dall'antitrust. Sulla parità Telecom, questo l'indomani del consiglio di amministrazione, che non ha preso decisione ufficiale né sul fronte del Brasile né sul tema della governance. Si sgonfia anche la controllata T-Media, che fa meno 0,7%. Finmeccanica guadagna il 4,20%, Fiat il 3,27%, World Duty Free il 2,5%, euro sotto quota 1,36 contro dollaro. Grazie Isabella e buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Vi vogliamo parlare di una storia di sport adesso, perché il 19 di gennaio cade il 30° anniversario del mitico record dell'ora di Moser. E allora ci racconta, ce ne parla Dario Ceccarelli. Sono passati 30 anni in cui è cambiato tutto, il mondo, lo sport, il modo di vivere e di pensare. 30 anni fa il ciclismo voltava pagina con un primato storico, il record dell'ora conquistato da Francesco Moser a Città del Messico nella pista del Centro Deportivo. Il primato da battere era quello di Eddie Merckx, il cannibale. Moser ci riuscì con due tentativi. Nel primo, il 19 gennaio 84, lo migliorò di ben 1376 metri, abbattendo il muro dei 50 all'ora. Nel secondo, il 23 gennaio, Moser fece il suo capolavoro percorrendo in un'ora 51 km e 151 metri. Moser superò quindi se stesso e tutti gli scettici che gli avevano dato del matto. Nell'aria leggera di Città del Messico, Moser, con le sue ruote lenticolari e uno staff di medici e scienziati guidati dal controverso professor Conconi, aveva rivoluzionato il ciclismo, considerato uno sport immobile, coi suoi riti della fatica e della polvere, dei muscoli e del sudore. Una rivoluzione. Sì, certamente avevamo cominciato a fare gli allenamenti che già si facevano nell'atletica, per quello allenamenti controllati col cardiofrequenzimetro, si vedeva l'impegno, diciamo, cardiaco, avevamo come a disposizione come i contagiri della macchina, ecco, che prima invece si faceva tutto a sensazione gli allenamenti. Invece lì abbiamo fatto per due mesi questi allenamenti col cardiofrequenzimetro e sapevamo a che frequenza avrei dovuto correre o per avere un rendimento ottimale, insomma. Moser, sull'onda del record, in quella primavera vinse anche una Milano-Sanremo, il Giro d'Italia. Poi nel 1986 al Vigorelli conquista anche il record dell'ora a livello del mare. Anni di trionfi, ma anche di sospetti e di polemiche, perché la medicina nel ciclismo ha fatto molti danni, aprendo la strada al doping ematico. L'autoemotrasfusione, pratica inventata da Francesco Conconi, fu condannata dopo i giochi di Los Angeles e anche il record dell'ora di Moser e dei suoi epigoni fu cancellato perché fatto in altura e con bici aerodinamiche. Ora il record lo si può fare solo con biciclette normali e infatti i grandi campioni non lo tentano più. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchesi, come tutti i venerdì e i lunedì. Questa settimana, anzi questo venerdì, ci porta in Sicilia. Un magistrato, ora in pensione, agli amici amava spesso ricordare che è un paese anormale, quello in cui la giustizia è costretta ad intervenire sui presunti reati commessi dai politici nell'ambito delle loro funzioni. Un paese anormale, come dice l'anziano magistrato, oppure un paese dove è normale per un consigliere regionale farsi pagare dall'intera cittadinanza ogni tipo di spese personali? A Palazzo dei Normanni, la sede dell'Assemblea regionale siciliana, si era organizzato un vero e proprio sistema collaudato, preciso, puntuale, perfettamente oleato negli anni, un meccanismo non dissimile da quello emerso in questi mesi in tutte le altre regioni. Panettoni, pandori, strene natalizie, bottiglie di vino, borse, cravatte griffate, auto in leasing, gelati. Tutte le spese private dei 97 deputati ed ex deputati siciliani indagati in questi giorni nell'indagine coordinata dalla Procura di Palermo venivano poi rimborsate regolarmente dal loro gruppo politico di riferimento con semplici scontrini. Agli atti dell'indagine ce ne sono alcuni di importi ridicoli, spesi al panificio, al supermercato, tipo pizze, focacce. E qualche deputato si faceva rimborsare perfino la mancia con apposito scontrino fiscale messo a parte dell'importo di 1 o 2 euro. Per aumentare gli stipendi dei collaboratori inoltre venivano pagate anche particolari indennità di guida o di computer. Tra i 97 deputati ci sono vecchie e soprattutto nuove conoscenze. E il nuovo che avanza, gente come Renziano, Davide Faraone, non sembrano comportarsi diversamente da quelle vecchie mitiche faine che si muovono da anni a Palazzo dei Normanni, come ci racconta da Palermo Nino Amadore. Per i maligni e gli avversari è solo un furbastro che è riuscito a farla franca, ma se provate a chiedere in giro a Palermo di Davide Faraone, responsabile welfare nella segreteria di Matteo Renzi, si parla solo bene. Cresciuto a Pane Politica, padre sindacalista della CGIL, Faraone, 38 anni, una figlia, una compagna, da sempre impegnato nel sociale in una zona molto particolare della città, l'area dello Zen del quartiere di Resuttana San Lorenzo, luoghi presidiati storicamente dalla mafia che conta, dove si occupa dei problemi della casa, di scuole a rischio e ovviamente di lotta alla mafia. Di lui si dice che si erede della parte migliore della tradizione politica del PC, consigliere comunale a Palermo, dove è stato eletto nel 2001 con 1500 voti, riconfermato nel 2007 con più di 3000 preferenze, divenendo poi il capogruppo del partito. Nel 2012 ha partecipato alle primarie del centro-sinistra per l'elezione a sindaco di Palermo, ma non ce l'ha fatta, pur raccogliendo oltre 7000 preferenze. Eletto deputato regionale nel 2008 e renziano dal primo minuto, e questa scelta lo ha portato ad avere scontri anche duri con esponenti del PD, come il senatore ennese Mirello Crisafulli, che di lui ha detto: l'ho allivato io, difendendolo nella lunga serie di minchiate che ha combinato. E tra le minchiate, come si dice con linguaggio colorito da queste parti, c'è un incontro recentemente ricordato dai grillini in Parlamento, dove Faraone è stato eletto nel 2013 con soggetti poi arrestati per associazione mafiosa, e un servizio di Striscia la Notizia che gli imputa di aver promesso posti di lavoro a una cooperativa. Faraone si è sempre difeso respingendo al mittente le accuse e minacciando querele. Ora l'accusa della Procura di Palermo di aver speso indebitamente 3.300 euro dei fondi del gruppo parlamentare quando era deputato regionale. Anche in questo caso lui si difende: li ho usati per l'attività politica. Come avete sentito, Faraone si difende e dice: mi viene contestato un importo di 3.300 euro e posso dimostrare che si tratta di soldi spesi per attività politica. Se mi accorgessi, dice Faraone, che la mia vicenda è di ostacolo oppure possa danneggiare il PD, non esiterei a fare un passo indietro. Certo, ora gli investigatori stanno controllando tutti quegli scontrini e certamente non è compito nostro emettere sentenze, quindi si dovranno attendere tutti gli accertamenti, ma la politica in Sicilia è già morta e ognuno degli indagati dovrebbe almeno moralmente trarre le sue conclusioni, cioè dimettersi. Ci fermiamo, sentiamo cosa succede sulle strade e poi vi aggiorneremo sulla notizia degli ultimi minuti, ossia questo treno che è deragliato in Liguria a causa delle piogge e di una frana. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti.